Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e bentrovati a Cuore Denari, ma soprattutto buon primo maggio alla mia Deborina. E anche in questo giorno di festa siamo qui a tenervi compagnia per un'ora sfogliando il nostro album di Cuore Denari. Siamo arrivati all'ultima di una sequenza di giornate festive. Per qualcuno sono stati dei ponti, come si suol dire. Insomma, un assaggio che ci ha fatto venire una grande voglia di vacanze. E allora in questa puntata speciale riascoltiamo proprio i consigli di Cuore Denari per le vacanze di questa primavera 2014. Ma anche per l'estate che ormai è alle porte. Anche il settore turistico spera nel bel tempo e nella voglia di vacanza. La crisi senz'altro non aiuta, ma sono tanti gli italiani che, come abbiamo visto anche negli anni scorsi, non rinunciano a muoversi e semmai decidono di farlo per periodi più brevi o scegliendo mete più vicine. Non ci si sbilancia ancora sulle previsioni, anche perché lo sappiamo, le vacanze sono sempre più soggette al low cost, che spesso va a braccetto con il last minute, tante parole in inglese per parlare di vacanze scelte all'ultimo minuto e a prezzi bassi. Sì, tanti decidono all'ultimo momento e cambiano idea all'ultimo momento. Altri invece, per risparmiare, preferiscono organizzarsi con largo anticipo. Quindi, come per il risparmio, oltre a diversificare, dobbiamo imparare ad organizzarci, perché forse giocando d'anticipo possiamo risparmiare qualche soldino e far contento anche il nostro cuore, perché diciamo la verità, a questo punto dell'anno la stanchezza è tanta, i soldi però lo sappiamo sono pochi, non solo in questo momento dell'anno, ma c'è anche tanta voglia di relax, di vacanze. Qual è la vacanza che vi è rimasta nel cuore, quella in cui avete speso magari meno denari ma vi ha reso di più? Vi siete divertiti, avete incontrato qualcuno di speciale, vi siete ricaricati, siete tornati nuovi, come si dice? Ditecelo anche con un messaggio al 349-238-6666, come ha fatto per esempio Valeria, che ci scrive: viva il cicloturismo, io percorrerò, adesso qua spero di dirlo correttamente, poi gli esperti in studio mi aiuteranno, tu lo conosci questo? Sì, no, lo conosco, il però canal è il canale di UMD, otto giorni. Brava Valeria che ce lo ha scritto, ma se volete mi rivolgo agli altri ascoltatori, fatelo anche con Facebook o su Twitter, perché no, mandateci una foto della vacanza più bella, quella a cui pensate sempre come metro di paragone quando ne organizzate una nuova. E a proposito di paragoni con il passato, chissà se per il turismo questo 2014 potrà essere meglio degli anni precedenti. Quali sono le tendenze, quali le attese, gli italiani riprendono ad andare in vacanza? Come è cambiato il modo di andarci? Oggi lo chiediamo a Pier Giorgio Reggio della direzione network Gattinoni Mondo di Vacanze, un network che raggruppa 650 agenzie viaggi in tutta Italia. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno. E allora, quali sono le prime sensazioni che ha questo network? Allora, le sensazioni sono decisamente positive. Già i primi mesi dell'anno ci stanno insomma dimostrando una ripresa del settore turistico dopo anni di grande sofferenza. C'è una tendenza a una prenotazione anticipata rispetto al passato, e questo insomma per noi del settore è decisamente un dato assolutamente positivo. Ecco, abbiamo detto che Pier Giorgio Reggio rappresenta, come dire, il canale di prenotazione delle vacanze tradizionale, l'agenzia viaggi, che oggi come sempre quando partecipa ai nostri programmi sarà tormentato e tempestato di messaggi da chi invece preferisce fare tutto da solo. Noi naturalmente prendiamo atto e commenteremo anche queste tendenze, non vogliamo mettere in contrapposizione un comparto piuttosto che l'altro. Anzi, suggeriteci, se state organizzando una vacanza, diteci la meta e come vi state organizzando. E guardando proprio a chi si organizza, Pier Giorgio, domani ti tagliano e ti mettono. Mi sta andando la saliva per traverso. Per quello che riguarda l'estate, invece, quali sono le mete che al momento sembrano essere le preferite degli italiani? Allora, l'estate anche quest'anno, insomma, purtroppo sta subendo, come l'anno scorso, il problema legato al Mar Rosso e all'Egitto, perché come sappiamo si è ripresentato il tema dello sconsiglio emanato dalla Farnesina, anche se limitato solo ad alcune aree egiziane. Per noi l'Egitto rappresenta una destinazione imprescindibile, perché comunque ha una stagionalità di 12 mesi, ha un rapporto qualità-prezzo che quindi influisce sui dati di vendita. Nonostante questo, i dati sono positivi, c'è una tendenza a lungo raggio, quindi molto bene i Caraibi, molto bene l'Oceano Indiano, quindi Maldive e Mauritius in testa su tutti. Continua sul segmento tailor-made, cioè cosiddetto su misura, quello costruito proprio ad hoc per i clienti, ad avere anche un ottimo andamento gli Stati Uniti, che rappresentano una meta ambita da molti. Non infierisca su di me, Reggio, perché lo sa che quella è una delle mie mete preferite. Sì. Leggevo, gli ascoltatori ci stanno mandando i messaggi al 349-238-6666 e la vacanza del cuore rimane quella che hai condiviso con una persona che ti ha acceso il cuore o con cui hai diviso il cuore. Ma scusami, no, sono leggere... molto romantici. Sì, no, perché allora, per esempio c'è la ragazza che farà una sorpresa al suo fidanzato. Fantastico. Andrà fine settimana a Barcellona. Brava, brava. Quindi vedi che tratta... so ancora leggere. Magnifico, vai. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare per... Ma non si sceglie, non si cambia una vacanza solo in relazione ai denari. Le ricerche hanno confermato quanto noi avevamo già intuito, e cioè che la scelta del luogo di vacanza dice qualcosa di noi, della nostra personalità, e potrebbe essere interessante quindi capire perché siamo attratti più dal mare che dalla campagna o dal lago. Ma non è solo questo, sappiamo che il nostro organismo reagisce e interagisce all'ambiente e circostanze, e non a caso si scelgono luoghi di villeggiatura che hanno caratteristiche, le mettiamo tra virgolette, ristoratrici. C'è chi le trova nell'aria frizzantina della montagna, chi nella tranquillità dei paesaggi lacustri, chi invece si sente rigenerato alla sola vista del mare. Allora oggi giochiamo su questo fronte per capire come la vacanza agisce sul nostro benessere fisico e su quello psicologico. Lo diciamo spesso che soma e psiche sono intrecciate, intimamente legate. Quello che fa bene al nostro corpo influenza anche la nostra mente, e quello che ci piace, accettiamo a livello mentale, ha delle ripercussioni benefiche naturalmente sul nostro corpo. Qui in studio è tornato a trovarci il professor Giampaolo Perna. Adesso tu dicevi prendo il fiato. Qua bisogna sempre prendere tre fiati per raccontare le sue qualifiche. Allora è direttore scientifico primario presso la Casa di Cura San Benedetto d'Albese con Cassano, e professore all'Università di Maastricht in Olanda e Miami. Ne abbiamo aggiunta qualcun altro in questi ultimi mesi? Va bene così. Ah, buongiorno professore. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sta già pensando alle vacanze? Sì, mentre parlavate stavo riflettendo sul fatto che ancora una volta bisogna ascoltare la pancia nello scegliere, no? Perché la pancia ci dice quello che ci fa bene, quindi talvolta quando pianifichiamo, scriviamo e qualche cosa ci fa sentire che quella vacanza non è per noi, forse è meglio lasciar perdere. Quindi la prima cosa è ascoltare il nostro corpo che ci dice che cosa ci fa bene e che cosa non ci fa bene. Credo che ognuno di noi sa alla fine qual è la vacanza da scegliere. Rilassarsi non vuol dire non far nulla, ma vuol dire fare ciò che ci fa sentire bene. Se vuol dire arrampicarsi sulle montagne, va bene così. Se vuol dire spaparanzarsi vicino alla piscina, anche. Però è importante ascoltare la pancia in questa scelta. Ma mentre il dottor Reggio ci aiuterà a programmare le nostre vacanze, ci dirà tutto sul mondo dei vacanzieri che si organizzano, alcuni per tempo, alcuni all'ultimo momento, insieme al professor Perna io vorrei stare nel qui e ora, perché noi abbiamo bisogno di vacanze, andiamo in vacanza una volta all'anno, ma sarebbe interessante ritagliarci delle vacanzine quotidianamente, vacanze dei nostri affanni. Perché? Perché in questo momento dell'anno tutti noi ci troviamo un po' cambiati rispetto a settembre. C'è chi somatizza e allora magari ha una serie di malesseri, c'è chi invece nota che la stanchezza si fa sentire con un aumento del nervosismo, ci sono persone che hanno proprio questa caratteristica, quando sono stanchi si inalberano, scattano per un non nulla, c'è chi invece è stanco, è molto stanco ma non riesce a fermarmi, sono su iperattivi, iniziano a rispondere alle mail, si caricano di lavoro, si portano il lavoro a casa, no. E c'è chi invece, questo questo è un terzo profilo, sente la stanchezza che in qualche modo lo spinge a rallentare al punto da diventare apatico. Sono tre profili che abbiamo individuato insieme al professor Perna, ma naturalmente aspettiamo che anche voi ci raccontiate il vostro stato d'animo di questo, in questo momento dell'anno così carico ormai di affanni e di stanchezza, e che cosa ha prodotto in voi, come vi ha cambiato, quali sono i segnali che il vostro corpo vi manda per dirvi sono stanco, avrei bisogno di riposo. Naturalmente la nostra mente non pensa ad agosto, ce lo segnala. Professore, abbiamo individuato tre profili che raccontano qualcosa di noi, e se gli ascoltatori ci dicono come si sentono, lei forse riuscirà a individuare qual è la causa di questo, come possono aggiustare il tiro e quale sarebbe la loro vacanza, quella vacanza ideale, quella vera, ce la suggerirà il dottor Reggia, ma lei potrebbe suggerirci anche alla luce delle ricerche che cosa si può fare per ritornare, no, in una dimensione di equilibrio e di benessere. Ricordiamoci, Nicoletta, che lo stress deriva dal fatto che noi ci stiamo confrontando con qualcosa in cui noi non ci sentiamo confortevoli, no? Quindi per togliere lo stress bisogna trovarsi in una zona sicura. Allora, sì. Zona sicura vuol dire che io posso scendere in cantina e dedicarmi mezz'ora a dare pugni a un sacco per sfogarmi, sì. E così sto benissimo. Posso sedermi su un divano rilassato, ascoltare della musica. Quindi ognuno di noi deve avere, a seconda del proprio temperamento, la capacità di trovare lo strumento giusto. Quindi il fatto che uno dica tu devi riposarti, cioè devi fermarti, è sbagliato. Tu devi trovare quella posizione, quella situazione in cui ti senti meglio, che è un concetto molto diverso. Quindi il riposo nel senso classico del termine assoluto è un qualche cosa di sbagliato. Ci scrive Sandro a proposito di pancia: la mia pancia dice sempre Maldive, mi farà male. E sono tanti gli ascoltatori che ci stanno raccontando le loro vacanze: Istanbul, Dubai e Sri Lanka con la famiglia in agosto, organizzazione fai da te con figlio di 18, penso me, che quell'enne sia M, quindi mesi. Sarà mesi, certo. Pacchetto di 3 giorni a Firenze per staccare dopo 10 mesi di lavoro ininterrotto, ciliegina sulla torta, l'incontro in centro con Renzi, questa non me l'aspettavo, ma abbiamo letto tutto il messaggio. Una partenza il 18 aprile per Fabio per il 4 On the Road negli Stati Uniti, il percorso del blues, Reggio, questo è meraviglioso. L'ha fatto? L'ho fatta ed è una vacanza che rimane nel cuore, quindi benissimo. Insieme a tanti altri itinerari. Allora, ne riparliamo a trasmissione conclusa, poi facciamo. Mi fa un budget volante, no, però mi stava incuriosendo quello che ha detto il professor Perna poco fa di vacanze che bisogna organizzare anche ascoltando la pancia. Mi chiedo, quelle famiglie che vengono, anche coppie, singoli individui nelle vostre agenzie che magari hanno in testa una meta, parlando poi con voi, riuscite voi ad ascoltare la pancia e far cambiare idea perché magari non è la vacanza idonea, a no, prescindere dal budget disponibile? Condivido totalmente quello che ha detto il professor Perna. Tra l'altro uno dei compiti del consulente di viaggio è proprio quello di cercare di capire qual è la vacanza più adatta al cliente che ha di fronte, ma soprattutto più adatta al momento specifico in cui il cliente si trova. Quindi ci sono a volte richieste di vacanze di totale relax perché si vive un momento particolarmente stressante, oppure vacanze che hanno la necessità di impegnare la mente, quindi vacanze che ti permettono, quindi itinerari culturali anche a volte molto pesanti, molto stancanti fisicamente, ma che permettono al cliente di vivere una realtà completamente diversa da quella che vivono nella realtà. Spesso in questi ultimi anni la vita frenetica che stiamo vivendo ha aumentato, per quello che riguarda i nostri dati, la vendita delle vacanze cosiddette short break, quindi la frequenza del cliente in agenzia è superiore rispetto al passato, anche con vacanze più brevi, con itinerari differenti, ma perché c'è proprio questa necessità del cliente di staccare la spina, cioè è una delle frasi che noi sentiamo più spesso in agenzia: mi dia qualche soluzione perché ho bisogno di staccare la spina. È una delle frasi per noi più ricorrenti. Ottimo, per modo però, di dire. Però bisogna sapere staccare la spina, la propria spina, come certo. Sottolineava il professor Perna, e quindi bisogna imparare, insomma, anche qui ci vuole un pochino di conoscenza, di attenzione, non bastano i soldi per fare una buona vacanza, bisogna anche conoscere una parte di sé, il cuore. Mi viene una riflessione al volo, che alla fine bisogna cercare la vacanza nella vacanza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se, come prima abbiamo parlato di famiglie che vanno via, le famiglie sono composte da persone che hanno esigenze diverse, Per cui l'errore è quello di forzare tutti a fare la stessa cosa in vacanza. È sbagliato. Perché c'è quello che potrebbe essere felice e stare spiaggiato per tutta la giornata, quello che deve andare a giocare assolutamente a pallavolo, quello che deve mettersi all'ombra, ascoltare musica. Quindi nella vacanza bisogna essere capaci ognuno di noi a trovare quel piccolo spazio e a permettere alle altre persone di trovarlo, perché allora si trova la vera vacanza. Se no diventa il rischio di un facciamo contenti le persone, certo, che amiamo, e poi non è una vacanza ma diventa una tortura. Quello che vogliamo però fare oggi è, professor Perna, sì, avere da lei consigli per fare delle vacanze, cioè alleggerimenti dal nostro carico quotidiano, e vogliamo ricordare agli ascoltatori che, dato, e vorrei chiedere anche al dottor Reggio, ci sono persone che cercano vacanze anche per ristoratrici, ma in funzione anche di eventuali magari caratteristiche, problemi di salute, penso alle persone che sono ipertese o alle persone che soffrono di asma, famiglie che hanno i famosi bambini gracilini, si sceglie anche il posto, il luogo di vacanza deve essere anche quell'occasione in cui fai il pieno di salute a cui attingi poi durante tutto l'anno. Se avete problemi di questo tipo e quindi magari volete sapere se la persona che soffre di cuore può scegliere la montagna, se invece è meglio che vada al lago, ci raggiungerà il nostro medico di famiglia, il dottor Carlo Gargiulo. Andiamo intanto agli ascoltatori, ci sono pronti Leo da Messina, Maurizio da Padova, Luca da Mantova, ma solo un flash, Pier Giorgio Reggio, low cost significa sempre una vacanza a basso prezzo? O oggi il concetto, diciamo, è un po' diverso anche rispetto a quello tradizionale al quale ci siamo abituati? Ma purtroppo spesso si è abusato di questo termine, perché poi low cost, sono nate le compagnie aeree low cost che prevedevano la possibilità di vendere biglietti aerei a tariffe agevolate, ma poi abbiamo scoperto nel tempo che non sempre è così, perché spesso anche le tariffe proposte dalle compagnie di linea classiche sono più convenienti delle cosiddette compagnie low cost. Io credo che la vacanza non può essere etichettata, è variabile sia sulla destinazione, sulla durata, sul prezzo, non è sempre detto che un cliente che prenota all'ultimo minuto risparmia, anzi la tendenza degli ultimi anni è proprio a incentivare il cliente a prenotare in largo anticipo, quindi dando delle proposte che possano essere assolutamente molto vantaggiose. Spero che negli anni, insomma, questo termine di low cost, last minute, possa nel tempo, insomma, essere sempre un pochino, perché non le piace, insomma. Ma no, ma perché etichetta la vacanza, ed sì, è una cosa che io non amo. Secondo me la vacanza, noi vendiamo sogni, quindi parlare di vacanza low cost, a me già perdo già la poesia. Un sogno, insomma, low cost non c'è. Dai. Quello che realizza Maurizio da Padova. Buongiorno a tutti. Sì, l'anno scorso sono andato in pensione e quindi abbiamo deciso, io e un mio compagno di lavoro, anche lui in pensione, di fare questa vacanza sogno e andare da Gibilterra a Capo Nord in bicicletta, ritagliandoci il tempo che ci serve, quindi non avendo impegni di lavoro. Maurizio, senza moglie al seguito? Senza, sì, perché lei purtroppo lavora ancora, certo. E anche perché è un'impresa, diciamo, una vacanza impresa sogno, quindi un miscuglio di cose, bisogna essere molto allenati. Noi, ecco, abbiamo impiegato diversi anni per portare a un grado di preparazione fisica il nostro corpo per poter poi sperare, insomma, certo, di portare a termine questa vacanza sogno. È fatta in autonomia, quindi andremo con la tenda, il sacco a pelo, diciamo, è un ritorno di gioventù, insomma. Bravo. Bravo Maurizio, quando parte poi ci dia notizie ogni tanto. No, ci mandi anche una cartolina, se le trova ancora, perché le cartoline anche ormai non ci sono più. Infatti qua con gli Maurizio, SMS. Grazie. In sella, come ci scrive Antonio da Craviglia in provincia di Arezzo, mattina in bici e pomeriggio sotto un bici pergolato con salumi di cinta senese e Chianti. Questa ecco è la sua vacanza. Va ancora al mare in roulotte a Pinarella di Cervia? Assolutamente garantito, ci vado da 20 anni ed è fuori discussione. Poi la prima telefonata, devo dire, che ho ricevuto da ministro è stata quella di Maria, la mia vicina di roulotte, che mi ha fatto la stessa domanda. Ma un ministro ci va in roulotte? E gli ho detto, Maria, purtroppo per te ti tocca ancora, sono 20 anni che ci vediamo, ci rivediamo il 21esimo, perché lei prepara il gnocco fritto, abbiamo il lambrusco, il salame. E vabbè, cioè, prenderà anche delle iniziative che magari non piacciono a tutti con il Jobs Act, ma il ministro Poletti secondo me è molto simpatico, andrà in vacanza prossimamente, avete sentito dove, quindi se lo volete andare a trovare magari quest'anno avrà una schiera stessa di guardie spiaggia, del corpo. Stessa spiaggia, stessa roulotte, stessi amici, infatti. Stesso mare. Professor Perna, molti tornano perché si riposano di più nella vacanza che già conoscono. Ognuno di noi prende le misure del posto in cui ci ritroviamo e chiaramente se io voglio riposarmi, soprattutto con le vacanze brevi, in fin dei conti se ritorno nello stesso posto non devo riadattarmi, quindi immediatamente appena arrivo posso già usufruire della vacanza. Se io vado 2 o 3 giorni è importante non impiegarci un giorno a capire come funziona il sistema per poi ripartire subito dopo. È vero anche che ci sono delle persone, ne parlavamo poco fa, che sono un po' abitudinari per paura, cioè l'idea di esplorare il mondo è qualcosa che fa paura, per cui si tende a stare nelle zone sicure. Tornando al fatto che il temperamento di ognuno di noi è molto importante, chi tende a evitare i pericoli, questa è proprio una caratteristica del temperamento, cercherà di andare nelle zone sicure e conosciute. Chi è molto esplorativo, ci sono delle persone che hanno bisogno di cercare novità, queste sono quelle che andranno a fare tutte le vacanze, da andare sul parapendio piuttosto che insomma un po' Indiana Jones, sì, esatto. Ecco, con qualche gene di Cristoforo Colombo, che mentre gli altri gene pantofola. In gergo moderno si chiamano travel experience, no? Giorgio Reggio, adesso l'ho detto un po' la difficile, ma l'ho appreso questo durante la nostra pausa, me lo vendo subito, come ha fatto il nostro amico che va a, sì, fare il suo percorso. Che parliamo proprio di esperienze di viaggio, nel senso che la tendenza che il settore sta seguendo, perché comunque poi è una tendenza del cliente, del nuovo cliente a cui noi facciamo riferimento sempre comunque, è quella di abbinare alla destinazione un'esperienza di viaggio. Che può essere un'esperienza culturale, può essere un'esperienza enogastronomica, può essere un'esperienza sportiva. Quindi la tendenza è di proporre una destinazione abbinandola a un piacere. Molto è stato fatto soprattutto dai croceristi che negli ultimi anni hanno proposto itinerari che sono poi gli stessi dal punto di vista, diciamo, geografico e organizzativo, ma abbinandoli, non so, agli appassionati del bridge, la crociera del bridge veramente mi fa impazzire. Oppure crociere dello scopone scientifico, se per me, se vuoi, scala 40, quello che ti pare. Cuore e denari. Operazione vacanze. Tiriamo indietro le panze. Tutti in costume coraggio. Sì, come no. Puntiamo. Volevi dire rubamazzo e invece ti è venuto un altro gioco di carte. Voi vabbè, andate vabbè. Sempre lì, eh? Allora, l'avete proprio qui. La nuova frontiera della crociera, quella del ballo, non scoperto, l'acqua calda per Giorgio Reggio c'è già, ma soprattutto ce n'è una inedita dove tutti vogliamo andare, perché qua siamo già alla ricerca del cartone animato nel quale ci travestiremo. Che cos'è questa modalità di andare in crociera? Ma la crociera per i cosplay, quindi fondamentalmente per chi ha la passione. Io ora non vorrei tecnicamente offendere nessuno perché non sono un esperto, sono molti appassionati, però ma sono gli appassionati di cartoni animati, film particolari, che amano fare queste feste, che fanno dei gran raduni, esatto, dei raduni travestendosi del proprio personaggio preferito, insomma. E su questo hanno creato anche un itinerario in crociera. Facciamo così, Woman, da che cosa ti travestiresti tu, Deborah? Da Catwoman, con il mio corpo sinuoso lo vuoi mettere, scusa. Il professor Perna è un po' preoccupato di questi raduni. Lui è Superman, perché ci in realtà viene. Pensavo che molto spesso uno in vacanza si traveste comunque, nel senso che lascia quello che è e poi fa diverse cose, no? C'è quello che fa il playboy, c'è quello che, cioè, ci permette in qualche maniera di essere diverso da quello che nella vita quotidiana, no? Quindi in realtà il travestimento in vacanza è molto frequente, perché esattamente abbiamo detto, dobbiamo dare uno stop a quello che noi siamo durante la quotidianità. Lo stop non è soltanto cambiare posto, ma anche essere un po' diversi. Forse in vacanza talvolta siamo più vicini a quello che vorremmo essere rispetto alla realtà normale. E tu che cartone sei? Sto pensando se fare Minnie, perché potremmo fare Minnie e Clarabella, perché così abbiamo l'altezza. che così anche perché saremo parole uniche ormai non sono tanto gettonate. Ma hai ragione, vogliamo anche... essere originali anche in quello. Io faccio Minni, tu Clarabella, noi guarda, andiamo ovunque, ma andiamo anche a salutare il dottor Carlo Gargiulo che è in linea con noi, buongiorno. Che si sarà fatto delle grasse risate, buongiorno dottore. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Sì, effettivamente stavo pensando a che cosa mi potrei travestire io, mi viene in mente Pippo, però... Pippo. Che è simpaticissimo. Perché vuole stare sempre con noi, vedi? Il dottor Gargiulo. Certo. Perché anche bisognerebbe leggere qualche cosa, come avete letto con me con lo scopone scientifico. Perché il dottor Gargiulo vuole fare Pippo? Perché c'è Clarabella, eccola lì. Allora, dottor Gargiulo, abbiamo anticipato prima il suo intervento, perché il soggiorno nelle località di vacanza che scegliamo a volte può essere condizionato dal nostro stato di salute. Si dice vado in vacanza per rigenerarmi, ma non solo, anche per fare un po' scorta di benessere da poi spendere durante l'anno. E allora ci sono sempre i dubbi, le raccomandazioni, i consigli degli amici, e noi vogliamo naturalmente chiederla a lei. Il mare consigliato in particolare a chi, dottor Gargiulo? Allora, il mare è consigliato sicuramente a chi ha qualche problema di malattie respiratorie, va benissimo, perché chiaramente quest'aria, soprattutto l'aria del mattino nel mare, è un'aria che può far molto bene. C'è una leggenda metropolitana che dice che va bene per chi ha problemi di tiroide. In realtà non esiste un'aria iodata, ma potrebbe essere utile passeggiare sulla riva del mare quando il mare è abbastanza in tempesta, in burrasca, perché queste goccioline di acqua di mare che vanno in sospensione, che vengono inalate, portano lo iodio. Se no, in realtà l'aria non è un'aria iodata e quindi non serve. Ancora, chi ha problemi di allergie respiratorie, perché le allergie respiratorie si sentono meno nelle località marine, quindi anche per loro è consigliato. È consigliabile anche a chi ha problemi di pressione, perché tutto sommato l'iperteso non soffre di problematiche legate alle variazioni di altitudine, perché al mare siamo appunto a livello del mare e quindi non c'è un problema di variazione sulla pressione del sangue. Ancora possiamo dire il mare è consigliabile ai bambini in fase di crescita, perché quest'aria marina, l'esposizione al sole, sempre con le dovute cautele, sempre con le dovute precauzioni, è un'esposizione che arricchisce l'osso, fa aumentare la produzione di vitamina D e quindi chiaramente migliora la qualità dell'osso, e per cui va bene anche molto per le donne che in menopausa hanno qualche problema di osteoporosi. Esporsi al sole le aiuta a migliorare la qualità del loro osso. Dottor Gargiulo, problemi di pressione, gli ipertesi o magari i soggetti che hanno avuto problemi con cardiaci, la montagna, l'altitudine fa la differenza? Possono andarci previo un controllo medico oppure sono consigliate consigliata la mezza montagna, come si dice? Allora, l'alta montagna è assolutamente sconsigliata a chi ha problemi di pressione alta, però per alta montagna noi intendiamo una montagna al di sopra dei 2500 metri, ovviamente una montagna più impegnativa, ed è sconsigliata anche perché, proprio per il fatto di essere una montagna impegnativa, che ci consente di fare sì passeggiate, ma sono passeggiate un po' in debito d'ossigeno, non va bene per chi ha problemi cardiologici o problemi di pressione. In questi casi ovviamente dobbiamo scegliere la mezza montagna, come si dice, cioè una collina intorno agli 800 metri, saliamo ancora fino ai 1500-1800, è possibile. Anche là conviene un adattamento, quindi non arrivare improvvisamente da 0 a 1800, ma magari arrivarci gradualmente, e soprattutto l'iperteso, una volta arrivato nella località di villeggiatura, misuri la pressione qualche volta in più, perché questo può consentirgli di aumentare, se serve, la sua compressina per la pressione, oppure regolarla meglio. Marco ci chiama da Brescia. Buongiorno Marco, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Siamo pronti, sì. Marco, ci porti in vacanza. Grazie mille. Niente, io volevo raccontare la mia esperienza di vacanze. Io ho 30 anni e generalmente i miei coetanei cercano delle vacanze un po' più attive, però ho scoperto le vacanze termali e l'ho scoperto in un posto fantastico. Dove? La Slovenia. La Slovenia, che è qui a un tiro di schioppo dal nord Italia, e volevo raccontarla soprattutto perché in quella nazione ho scoperto che c'è un'attenzione particolarissima per l'ambiente, ma anche per persone che hanno esigenze particolari, come ad esempio io e la mia compagna siamo vegani, sì. E molto spesso in Italia ci sentiamo dire siete vegani, oddio, nel panico, il ristorante, e ci troviamo la verdura grigliata, diciamo. Sì. Mentre in Slovenia volevo portare appunto questa testimonianza di una vacanza dove c'è una attenzione particolare al cliente. Scelte, certo. Sì. Una cosa che, e qui faccio un po' una critica alla maggioranza dei ristoranti italiani, non ho trovato in Italia. Diciamo che ovunque sono andato ho sempre trovato un servizio migliore. E inoltre anche le terme sono bellissime. Lei lo sa, Marco, il dottor Gargiulo lo conferma, che l'Italia comunque è un paese di terme, no? Che è considerata la medicina tradizionale dell'Occidente. Però forse non sono attrezzati per piatti vegani, dottore, e quindi l'invito di Marco è interessante comunque. Senz'altro sì, perché in realtà l'attenzione che bisogna avere verso le persone che stanno in vacanza o che fanno addirittura una vacanza per la salute, a tutela della propria salute, dovrebbe essere ancora maggiore. Quindi l'attenzione verso il celiaco, l'attenzione verso chi ha intolleranze alimentari e l'attenzione verso chi ha un'alimentazione per scelta come i vegani, un'alimentazione che è ovviamente dedicata all'allontanamento di quelli che sono tutti i derivati, i cibi animali e i derivati animali. Questo bisognerebbe averlo, perché bisogna rispettare un po' le esigenze di tutti quanti, però per quello che riguarda invece il termalismo possiamo dire che l'Italia non è seconda a nessuno da questo punto di vista, sia per la scelta delle località termali, dal nord al sud, che proprio per le acque che hanno proprietà differenti a cui dedicheremo sicuramente una puntatona. Volevo dirti questo invece, a me è capitato con mio figlio Alessandro di decidere dove porto un figlio adolescente a fare degli sport estremi, no? Per cui siamo andati a fare rafting, abbiamo fatto una settimana di queste qui e lui si è divertito così tanto che mi ha detto: papà, andiamo anche l'anno prossimo. Quindi è importante anche quello di sapere chi abbiamo vicino, perché è chiaro che portare un figlio adolescente in una spiaggia a fare nulla vuol dire rovinarsi la vacanza a lui e a noi, no? Essere capaci di entrare nei panni di chi ci sta vicino vuol dire trovare un compromesso ragionevole per trovare qualcosa di stimolante e divertente che ci porti a vivere ancora delle emozioni insieme. Ho deciso, insomma, che giocatevela bene. Io ho deciso che ti porta a fare parapendio, così tu voli via e io invece casco come una pera. Innanzitutto questa per noi non sarà una vacanza, no. Sarà una partenza, è diverso. Adesso noi tre dobbiamo prendere e lasciarci alle spalle un po' di roba, Zavorre, pete inutili, ansie, angosce, problemi, basta. Ma che davvero pensavate che noi facevamo l'esame, la maturità, e noi eravamo felici? Così di punto in bianco noi tre eravamo felici. Sauro da Porcari ci scrive: la vera vacanza non è un periodo, ma è quella che si riesce a possedere ogni giorno. Ed è quello che proveremo a fare naturalmente con i consigli del professor Perna. Abbiamo gli ascoltatori che ci raccontano le loro vacanze. Ivano dalla provincia di Modena e Angela da Roma. Ma prima su Twitter Serena ci scrive: la mia vacanza ideale è col fidanzato in montagna, dove posso fare trekking oppure in bici. Fa bene a salute e portafoglio. Insomma, ha scelto un fidanzato sportivo come lei. Esatto. Biagio invece l'on the road nel New England in autunno, colori fantastici comprese le cascate del Niagara. Insomma, tante scelte da parte dei nostri ascoltatori, e ne ha fatta una veramente originale anche Ivano dalla provincia di Modena. Cuore e denari. Ivano, buongiorno. Buongiorno. Compagnia, non compagnia, anzi. No, non è una compagnia, diciamo che abbiamo scelto le vacanze io e mia moglie con la pancia. Come invita il professor Perna, certo, ma la pancia di lei o la pancia di sua moglie? La pancia di entrambi, infatti è da molti anni che facciamo le vacanze separati, perché a mia moglie piace andare a visitare le città, musei, palazzi, eccetera. A me invece piace fare la montagna con trekking itinerante di parecchi giorni da rifugio a rifugio. Quello che ci manca è la vacanza insieme ultimamente, dopo tanti anni. Però le manca. Ma tra l'altro, Ivano, questi periodi separati, quanto sono lunghi? Una settimana, tutto il mese di agosto? Sono quella settimana. No, non sono. Tenendo presente che noi facciamo un lavoro che siamo insieme, lavoriamo insieme in un negozio, per cui siamo quindi è una vera vacanza, insomma. È una vera vacanza, state sì. insieme tutto il giorno. Siamo insieme tutto il giorno. Grazie Ivano, però a volte ci manca. Però lui dice, ecco, ci manca la vacanza insieme. Come ma gli... dottor, lei Reggio, che cosa suggerirebbe come a questa coppia che sta insieme? Ecco, sta insieme 24 ore su 24, lavorano insieme, si prendono questa settimana di respiro, ciascuno per dedicarsi ai propri interessi, quindi fisiologico, però giustamente, ed è bello, sentono il desiderio di una vacanza insieme. Dove li mandiamo? Ma allora, io sono dell'idea che, insomma, la vacanza insieme è una vacanza decisamente migliore, no? Però, come dicevo anche prima, quando si sceglie una vacanza si deve cercare di non arrivare mai a un compromesso, perché poi è il modo peggiore per partire già col piede sbagliato. Quindi quando una coppia o una famiglia si presenta in una delle nostre agenzie e vediamo che ci sono veramente dei gusti, delle preferenze completamente diverse, spesso uno soccombe sull'altro. Ecco, questo è il caso diciamo peggiore per partire per una vacanza, perché purtroppo basta soltanto che un membro della famiglia non abbia quel giusto motivo per iniziare questo viaggio, insomma, per poi rischiare di rovinare la vacanza. È difficile trovare una vacanza che vada bene a una coppia o una famiglia con interessi completamente diversi. E lì, insomma, direi che è molto difficile. È uno di quei casi. È un caso da studiare. Allora, sì, no, volevo ricordare intanto, anticipiamo ai nostri ascoltatori, certo, che proviamo ad ipotizzare con Pier Giorgio Riso, così come il professor Perna ha indicato prima dei profili di viaggiatori, di vacanzieri, ipotizziamo anche tre consigli di vacanza per tre tipologie di viaggiatori diverse. Sì. E quindi ammettiamo di avere una famiglia di quattro persone con due bambini, a parte New York, naturalmente c'è tutto il mondo da esplorare, una coppia di neopensionati e due giovani un po' squattrinati. Sentiremo tra un attimo cosa ci consiglia oggi. Per conciliare, hai detto giusto, per conciliare le varie esigenze. E dire che ho bevuto ieri e non oggi. Laura da Como, buongiorno, io sono in vacanza tutti i pomeriggi, dalle 18 alle 8 e il sabato e la domenica. Spesso esco a mangiare in giardino, anche cambiare punto di vista rigenera. E su questo filone che noi battiamo oggi col professor Perna per vacanze quotidiane, per non arrivare alle vacanze stremati di fatica, professore? Ha detto una cosa saggissima, anche la coppia di prima, se riuscissero a fare delle piccole vacanze quotidiane forse sarebbero capaci molto di più di andare insieme poi quando si esce fuori. La vacanza quotidiana può vuol dire tante cose, un film, un videogioco, la musica, il ballo, la palestra, la camminata, sono quelle mille cose che però noi dobbiamo sentire come appartenenti a noi stessi. Questo è l'elemento, metterlo tutti i giorni vuol dire avere una garanzia antistress e la capacità di non arrivare alla vacanza sfinita. A quel punto lì si può scegliere, anche le vacanze assieme, veniva in mente, si può benissimo scegliere una vacanza in cui alcuni giorni vanno nella direzione di una pancia e altri in altri, quindi si può andare insieme, adattarsi parzialmente ma riuscire a essere soddisfatti lo stesso. Purtroppo lo staccarsi quando si è in coppia è difficile, perché alla fine è vero che le persone sono diverse ma un po' si fondono su tante, certo, cose, quindi bisogna vedere quanto il dispiacere di non essere vicino compensa il piacere di fare esattamente quello che uno vuole. Angela, buongiorno. Buongiorno, ecco la ciuffata. Bravissime, simpaticissime, io vi ascolto tutti i giorni, complimenti. Grazie. Volevo dire a proposito delle vacanze, io le ho provate tutte, ho 63 anni, quindi una vita abbastanza lunga, ma ancora non abbastanza. Sono da poco in pensione, le ho provate con l'ex marito, con l'ex compagno, tutti i modi, fino a che ho scoperto la vacanza ideale, cioè quella con me stessa, la vacanza da sola. Io sono iscritta a associazione, sono iscritta a un club, ogni tanto vado con loro, però la più bella delle vacanze, a parte quella quotidiana e viva la pensione, è quella che io faccio da sola, quindi viaggi o mare o montagna o quello che mi piace, perché mi sento più libera di fare quello che sento, quello che voglio. E, ripeto, ha trovato la altre, sua dimensione. Ho provato anche le vacanze separate, non ha funzionato quasi niente, ma la vacanza da sola io la suggerisco. Angela, ci dica dove va quest'anno, ci dica dove va quest'anno, sì, per chi allora, volesse simularla. Perché non conosco tutte le capitali europee. Costa del Mare, già prenotato, così risparmio, in luglio, in agosto vado in montagna. Come località Puglia, e la montagna di mi sfugge Austria, perché mi piace, si risparmia, eccetera. Angela, brava, grazie. Una vera vacanziera. Le donne, perché le donne hanno paura di andare in giro da sole, ecco. Quindi a parte i mariti, i compagni, i fratelli, i nonni, i bisnonni, anche da sole. Vedi, forse da sole è meglio. Forse da sole è meglio. Forse. Direi di sì. Forse. Però è carina Angela che se la ride, perché la consiglia soprattutto alle donne. Quindi se siete del partito di Angela e dopo non devono avere paura, si attaccano agli uomini e poi si Mamma mia, che cozze. Noi chiederemo al dottor Reggio di dare come prima indicazione certo, il profilo per le ragazze che da vanno da sole in vacanza, lasciano mariti e si prendono una piccola pausa. Non mi dica Cuba, perché sarebbe troppo facile. Ma io vorrei spezzare una lancia anche a favore delle vacanze avventurose in coppia, perché sono rigeneranti anche per la coppia. Non ci mollano questi mariti. Volete sempre venire in vacanza con noi, ma cosa vi faremo? Io non lo so. Ma si tende a cercare la vacanza da soli per ritrovare se stessi, ma invece io trovo che sia anche molto bello ritrovare la coppia, certo, in vacanza. Però capisco che insomma poi ci sia anche l'esigenza, la volontà, la necessità di spesso staccare un po' dalla routine e anche dal compagno. Qualche volta è anche un po' una schermaglia consolidata, la vacanza la sceglie la moglie e lui per partito preso dice no, guarda, sai che c'è, io lì non voglio venirci, vai da sola, arrivederci. Detto questo, dove la mandiamo con un budget contenuto? Ma ecco, una signora come infatti, quelle che ci hanno chiamato. Il budget la fa sempre da padrone naturalmente in queste scelte. Io consiglio sempre delle vacanze che siano, che come dire, uniscano un itinerario culturale anche a un momento di relax. Mi piace moltissimo l'Oriente, quindi io consiglio sempre a chi vuole fare un viaggio introspettivo con se stesso anche un itinerario nella parte orientale, quindi che può essere l'Indocina, la Birmania, anche la stessa Thailandia. Per chi ha un budget decisamente più contenuto è anche molto bello fare per esempio un itinerario nel nord Europa in totale autonomia, perché in totale sicurezza. Oppure anche molto bella la Spagna, quindi fare un bel itinerario. Certo. Quindi le possibilità sono molteplici, naturalmente, insomma, dipende anche dal dove dalle il marito preferenze. Possa giocare a bocce, praticamente dobbiamo cercare una località giusta anche per comunque le signore. Diego ci scrive che sua moglie odiava il mare, lui l'ha costretta lo dice qualche anno fa ad una vacanza a Sharm. La moglie è diventata un pesce, non una sirena, un pesce. E adesso il mare non è più un problema e vivono felici e contenti, certo. Diego e la moglie. Chissà dove la portava prima. Per una famiglia di quattro persone invece, Pier Giorgio Reggio, con bambini, genitori, lavoratori, dove li mandiamo quest'anno? Allora, chiaro che sulla famiglia, insomma, anche qui il budget la fa da padrone, perché inevitabilmente un budget familiare di quattro persone incide nella scelta della propria vacanza. Chi ha necessità di trovare un viaggio con un budget contenuto, non possiamo che suggerire un itinerario in crociera, che per due adulti e due ragazzi sotto i 18 anni ci aggiriamo intorno a un prezzo variabile tra i 2.500 e 3.000 euro per nucleo familiare, quindi un prezzo decisamente molto vantaggioso. Il vantaggio proprio sulle crociere è che salvo disponibilità i ragazzi fino ai 18 anni non pagano e quindi questo diventa un vantaggio economico importante. Ci sono anche altri itinerari che si possono suggerire a delle famiglie con bambini, che possono essere dal villaggio e anche qui per esempio se scegliamo l'area del Mar Rosso, quindi in questo momento la zona di Marsalam, perché non è interessata dallo sconsiglio della Farnesina, il vantaggio economico anche qui può essere decisamente importante, e proprio nel target delle famiglie è importante prenotare con largo anticipo. Perché? Perché le gratuità dei bambini sono contingentate, quindi non sono a disponibilità limitata, quindi ecco. chi ha bambini, noi consigliamo di prenotare con largo anticipo per proprio agevolare e beneficiare della gratuità proprio per i propri figli. Allora, veramente le nostre amiche ci stanno scrivendo. Carmen ci scrive che da ragione ad Angela è andata da sola in Israele, bellissime, e tanti altri posti, ma anche le vacanze con marito. Mm-hmm. Fate come me, ci scrive di nuovo Anna, mio marito sempre in vacanze da solo, io le faccio a casa, no, è bellissimo, Anna. Provare per credere. Ma... Professor Perna, diamo un commento rapidissimo a questo desiderio che è venuto fuori da alcune nostre ascoltatrici di ritagliarsi proprio delle vacanze da sole. Io credo che stare da soli e ritrovare l'armonia con se stessi rischia poi di non far ritrovare l'armonia nella coppia. Siccome nella quotidianità si fanno tante e troppe cose separate, forse io penso che uno degli obiettivi debba essere ritrovare l'armonia della coppia in vacanza, che è un momento in cui forse ci si ritorna a essere come si era fidanzatini in qualche maniera, e questo può aiutare in realtà a costruire. Quindi va bene da soli, ma forse insieme è meglio. E dopo aver sognato le vacanze con i consigli per il cuore e per i denari, dobbiamo salutarvi e darvi però appuntamento a domani. Esatto, perché noi invece non andiamo in vacanza, non facciamo il ponte, quindi vi aspettiamo in diretta puntuali dopo il GR delle 11. Ancora buon primo maggio a tutti dalla donna di denari e dalla donna di cuore.